in primo piano. Ovviamente fa impressione vedere, l'avrete vista in TV, ma rivedere a tutta pagina la foto, una vera e propria maschera di sangue del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ieri appunto aggredito con una miniatura della piazza del Duomo scagliata da tale Massimo Tartaglia, che è stato arrestato. I titoli e le aperture sono tutti su questo: Berlusconi ferito in piazza, troppo odio, è il Corriere della Sera; Berlusconi aggredito a Milano per Repubblica, aggressione a Berlusconi per La Stampa. Il Giornale mette praticamente a tutta pagina la foto insanguinata di Berlusconi: violenza costituzionale, questo è il titolo del Giornale. Dall'altra parte l'Unità, sempre la foto di Berlusconi: follia. Un po' in questi due titoli era chiuso anche il senso del nostro sondaggio. Il tempo dell'odio, c'è la faccia di Berlusconi sul Quotidiano Nazionale e a fianco la faccia di Massimo Tartaglia, colui che è l'aggressore. Berlusconi colpito al volto per il Messaggero. Insomma, questi titoli. Il Sole 24 Ore, sapete, edizione del lunedì, diversa, apre su il fisco, apre gli elenchi del lusso. È una notizia molto interessante che quando vedremo le notizie economiche approfondiremo. Ma ovviamente dobbiamo partire dalle tantissime pagine di cronaca dedicate a quello che è avvenuto ieri a Milano. Leggo dal Corriere della Sera: frattura al setto nasale, due denti spezzati per il premier, una notte in ospedale, due incisivi superiori rotti, una lieve frattura del setto nasale, evidenti graffi al volto, labbro superiore tagliato dentro e fuori, in sintesi almeno 20 giorni di prognosi. Ci sono tante testimonianze, tra queste c'è quella del ministro Maria Stella Gelmini, che era lì a fianco, ha detto: si è accasciato, credevo fosse morto. Mi sono voltata un secondo, ero lì per salutarlo, ho sentito questa botta tremenda, un rumore, mi sono girata verso il presidente, ho visto che si stava accasciando. Poi dice: ho visto bene anche l'aggressore, devo dirla tutta, a me sembrava drogato. È la prima cosa che ho pensato, aveva la faccia assente, un'aria stralunata. Questo l'aggressore, tale Tartaglia. Sulla Stampa, Michele Brambilla dice così: insomma, era atteso, questa domenica era definita come il possibile Predellino 2, due anni dopo il Predellino in cui Berlusconi, tra l'altro di lì a 50 metri da lì, in piazza San Babila, annunciò la nascita del Popolo della Libertà. Il tanto atteso Predellino 2, scrive Michele Brambilla, c'è stato, ma quanto diverso da quello di due anni fa e quanto diverso anche da tutte le ipotesi circolate in questi giorni. Silvio Berlusconi è salito anche ieri sera sul Predellino, ma non più per parlare al suo popolo, non più per fare annunci, solo per mostrare la maschera di sangue, gli occhi ancora sbarrati dal terrore e sembrava di vedere anche dallo stupore. Com'è stato possibile? Com'è possibile che l'odio contro di me arrivi a tanto? Queste domande pareva di leggere ieri sera dietro al Duomo di Milano su un volto che siamo abituati a vedere a volte sorridente, a volte iracondo, ma mai spaventato, mai alle corde. Il terrore no, non era mai stato nelle categorie di Silvio Berlusconi. Ovviamente sia la Stampa che altri giornali ricordano le varie aggressioni che ci sono state a leader di Stato, in Italia ovviamente. La Stampa, Jacopo Iacoboni, ricorda quelle contro lo stesso Berlusconi, quando per esempio la sera di San Silvestro nel 2004 fu colpito alle spalle in piazza Navona da un treppiede scagliato da un muratore di Marmirolo. Colui che si chiamava Roberto Dal Bosco disse anche: ma no, ma io volevo solo fargli pat pat sulla testa come nelle comiche di Benny Hill. E tra l'altro Berlusconi, diciamo, qua dice Iacoboni, lo perdonò, insomma, non, evitò di denunciarlo con tanto di reprimenda di Calderoli, che gli disse: io l'avrei fatto marcire in galera, forza di porgere l'altra guancia, Gesù l'hanno crocifisso. Poi vabbè, si ricordano i gruppi su Facebook, i vari Uccidiamo Berlusconi, la contestazione di Piero Ric, che gli diede del buffone, poi in tribunale disse gli diedi del puffone in realtà. Poi a Chiaiano poi l'8 aprile 2008 i Nodal Molin che lo aggredirono verbalmente. E poi ancora su un vertice dei rifiuti a Napoli, il cavaliere fu avvicinato da un abruzzese che gli gridò qualunque cosa, il premier sbottò «Vabbè, arrivederci». Poi i fischi, le urla di Cinisello Balsamo, fino un episodio che io non ricordavo, a Genova, nei vicoli, un tale gli si avvicinò al cavaliere da urlargli «Viva Mangano!» praticamente nell'orecchio, confiderà il cavaliere, il quale gli rispose arrabbiato così «Sei un coglione, coglione!» Insomma, questi sono i vari episodi. L'unità ricorda dal Rafael al treppiede: se la rabbia supera gli argini, beh, Rafael è l'aggressione, insomma, col lancio di monetine all'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi. C'è Claudia Fusani che ricorda un po' in un articolo tutti i vari episodi. I commenti sono anche tanti, voglio leggerne alcuni. Mario Calabresi, direttore della Stampa, in prima pagina: gli indignati a senso unico. Ci sono momenti in cui bisognerebbe abolire due parole, ma e però. L'aggressione di un uomo, in questo caso di un primo ministro, è uno di quelli. Di fronte alla violenza non possono essere accettate subordinate, ammiccamenti, tantomeno giustificazioni. Il giorno che la politica italiana tutta lo avrà compreso fino in fondo, allora sarà davvero matura. Se invece la prima cosa che passa in testa è pensare che se la sia cercata o meritata, allora siamo entrati in uno spazio in cui la dialettica politica è degenerata. E poi ricorda Calabresi: riceviamo continuamente messaggi di chi comprende questo gesto come reazione a un governo xenofobo, antidemocratico, razzista. Tutte persone che mostrano di essere solidali con gli immigrati e i più deboli, sconvolte per gli attacchi a Berlusconi, ma non toccate da ciò che è accaduto ieri sera. Questo modo di ragionare mi fa paura, scrive Calabresi. E a proposito di paura, sentite cosa dice Giampaolo Pansa, uno che gli anni 70 li ha vissuti, li ha raccontati da cronista, da giornalista, e che da più tempo, da un po' di tempo, da un po' di mesi peraltro, va a dire: io sento il clima, sento quell'aria da anni 70. Oggi Giampaolo Pansa ovviamente ribadisce: c'è un clima da anni 70, e tra l'altro dice: si rischia un altro caso Calabresi. Vale a dire il padre del incidentalmente il direttore della Stampa, Mario Calabresi, di cui ho letto l'editoriale poco fa. Il fatto che quell'uomo abbia problemi psichiatrici, dice Giampaolo Pansa in questa intervista a Paolo Conti, non cambia nulla. Mi chiedo, ma se al posto di una piccola riproduzione del Duomo di Milano avesse avuto una pistola? Il clima in questo paese è pessimo, clima da anni 70. Facile cavarsela con un «ve l'avevo detto», continuate a scriverlo anche nei miei commenti su Libero e Riformista. Io mi aspetto che adesso si usino le bombe, addirittura, dice Pansa, i proiettili per togliere di mezzi politici che non ci piacciono più. Oggi hanno aggredito Berlusconi, domani può accadere a Fini, Bersani, allo stesso Di Pietro. Speriamo di no, ovviamente. Le analogie con quegli anni? Io sono stato testimone da cronista di quegli anni. C'è di simile un muro di odio che divide l'Italia. Perciò ripeto un concetto già espresso: è tempo di abbassare i toni, una responsabilità che coinvolge tutti. A proposito di abbassare i toni, c'è una polemica che infuria riguardo ad Antonio Di Pietro, perché tutti hanno manifestato solidarietà incondizionata, insomma, è quello che è successo. Antonio Di Pietro ha detto violenza deprecabile, sì vabbè, ma lui è un provocatore, un po' quel ma per o quel però cui faceva riferimento Calabresi. Devo dire che tutti contro Di Pietro, ma forse dopo l'intervista che Carlo Bertini ha fatto a Rosi Bindi, il presidente del Partito Democratico, proprio sulla Stampa, forse qualche polemica ci sarà anche per Rosi Bindi. Non faccia la vittima, è uno degli artefici del clima violento. Questo è il virgolettato, il titolo dell'intervista a Rosi Bindi, che parla ovviamente di politica, ma mi interessa questo inizio. Ci mancava pure questa, dice Rosi Bindi. Sia ben chiaro, questa intervista deve aprirsi con la solidarietà a Berlusconi e con la condanna del gesto. Resta il fatto che tra gli artefici di questo clima c'è anche Berlusconi. Non può sentirsi la vittima. Questi gesti vanno sempre condannati, mai giustificati. Qualche volta però sono spiegabili. Certo, se si continua a dividere questo paese, alla fine. E poi ancora, motivi di esasperazione ce ne sono molti, legati alla crisi economica che alcuni pagano con prezzi altissimi. La sensazione più diffusa è che non sai più a chi rivolgerti, non sai più chi ti tutela. C'è perfino una rottura in parte creata da arte del movimento sindacale. E poi c'è uno scontro politico che si porta dietro sicuramente frange estremiste o persone che perdono la testa. Ma chi ha più responsabilità fa di tutto per dividere. il paese. Sbagliano i contestatori, non si disturbano le piazze degli altri. E anche oggi il premier ha mantenuto toni duri, perché dice Rosy Bindi, c'è modo e modo per zittire le persone. Insomma, anche Rosy Bindi dice sì, da condannare, ma... ci sono vari ritratti di chi è questo Massimo Tartaglia. Tutti sono concordi al fatto di dire è uno psicolabile, è da 10 anni in cura. Il padre che dice, perché sono andati ovviamente gli uomini della Digos a sequestrare un po' tutto, a perquisire casa, gli hanno trovato tra l'altro un'altra riproduzione del Duomo in tasca, nel giubbotto, e anche uno spray al peperoncino. Il padre intervistato, qualche virgolettato, dice è uno psicolabile. Votiamo PD a casa, ma nessuno di noi odia il Premier. Mi ha detto al mattino che andava da un'amica. Non sapevo certo che andasse da Berlusconi. Non mi risulta neanche che odiasse appunto il Presidente del Consiglio. Ci sono anche analisi come Fiorenza Sarzanini su che cosa può essere successo, insomma il doppio errore nel sistema di protezione. Certo, qualcosa è mancato nella protezione del Presidente del Consiglio. Si ricorda Fiorenza Sarzanini che è protetto da uomini molto esperti, anche dei servizi segreti, la scorta personale, uomini scelti da lui, che si mettono in doppio cerchio, uno più largo e quello più stretto, per evitare proprio il contatto fisico con le persone più vicine quando fa questi bagni di folla. E dice Fiorenza Sarzanini, chiaramente c'è stata una falla nell'ultimo cerchio della scorta. La questura tra l'altro aveva avvertito possibili incidenti. Ci saranno polemiche ovviamente anche per questo, per la mancata protezione. Trovate davvero tanti commenti, anche come detto Il Giornale e l'Unità hanno questi due titoli che un po' riassumono il nostro sondaggio, ovvero le due posizioni. Violenza costituzionale, scrive Il Giornale, Alessandro Sallusti il condirettore, Berlusconi il dittatore, il fascista, il tiranno, il monarca assoluto da battere a qualsiasi costo, parole di Di Pietro, non soltanto sue, il fronte dell'odio anticavaliere ha incassato il primo risultato. Mentre l'Unità, appunto, follia. Un pazzo ha colpito ieri al volto il Presidente del Consiglio, imprevedibile dunque il gesto inconsulto di una persona disturbata da 10 anni in cura. Che ne pensate? Gesto isolato oppure il rischio di una violenza politica, quegli anni 70 che Giampaolo Pansa dice potrebbero davvero ritornare? Che ne pensate di quello che è successo ieri a Milano? Ne parleremo alle 8.30, è il nostro sondaggio che dovete votare su radio24.it. Stavo vedendo sulla 7, proprio in questo momento ripassavano le immagini del proprio l'aggressione, questo corpo contundente che ha colpito il Presidente del Consiglio, davvero, davvero impressionante. Questo è il nostro sondaggio di oggi, ricordo, come impressionante anche il fatto che sulla rete, su Facebook, ci siano già pagine e pagine che inneggiano all'aggressore. Cambiamo tema, il fisco apre gli elenchi del lusso, così apre il Sole 24 Ore di oggi. È molto interessante perché l'archivio del lusso diventa operativo. L'Agenzia delle Entrate ha raccolto le informazioni su acquisti in leasing di imbarcazioni, sull'iscrizione in centri ippici, di benessere. A che servono? Beh, a breve saranno disponibili in un unico database anche i dati sui noleggi dell'auto, pacchetti vacanze, case d'asta. Perché? Perché si possono utilizzare come indicatori di ricchezza per intercettare i contribuenti ad alto rischio di evasione, sottoporli così a controllo con redditometro. In sostanza finiranno nel mirino del fisco i soggetti con esigui redditi dichiarati e un'elevata capacità di spesa. È un tema annoso, un tema fonte di grandi polemiche, cioè andare a vedere se uno, la traduco così, ha un reddito basso ma c'ha uno yacht, ha un reddito basso ma c'ha una casa comprata all'asta con quali soldi, ci si chiede l'Agenzia delle Entrate. E dunque Antonio Iorio e Marco Mobili a pagina 3 spiegano molto bene: la ricchezza finirà sotto la lente, l'obiettivo è la lotta all'evasione, il fisco pronto a censire le spese da VIP. Al via appunto il database su acquisti di barche, società in leasing, centri ippici, centri di benessere. È tutto ben spiegato come funzionerà, con anche i rischi connessi, anche un articolo di Enrico De Mita che dice lo strumento è legittimo ma va usato con cautela. Sempre dal Sole 24 Ore, un'altra notizia che riguarda davvero tutti. Io mi trovo concorde, ma io come al solito non conto nulla. Tassa sui ricorsi contro le multe, si legge in prima pagina. Che succede? Beh, sapete che alla giustizia, come allo Stato in generale, mancano un po' di soldi. E allora che cosa c'è? Parte un piano straordinario per smaltire l'arretrato civile, ma soprattutto parte un piano che renderà più caro l'accesso alla giustizia. Che per mettersi in sesto ha bisogno appunto di un'iniezione supplementare di risorse, e così si interviene col contributo unificato. Così si dirige la finanziaria 2010. Sostanzialmente tutti coloro che vorranno opporsi alle sanzioni, come le multe per la infrazione al codice della strada, dovranno pagare una tassa da 30 a 70 euro. Un colpo alla giustizia più spicciola, soprattutto a tutti coloro che ricorrevano al giudice di pace senza avvocato e senza spendere una lira come era previsto finora, tanto anche per una multa in divieto di sosta che magari uno si meritava, si fa ricorso al giudice di pace, non si paga niente, c'è solo il rischio di vincere il ricorso, e invece ora non più. Il ricorso contro le multe non sarà più gratis. A pagina 4 Andrea Maria Candidi spiega bene tutto quello che succederà, quello che si prevede oggi, per esempio per le multe e sanzioni amministrative, e quello che dopo la finanziaria, se entrerà in vigore, si prevederà, come per esempio i 30-70 euro per chi ricorre al giudice di pace. Questo vale anche per i pignoramenti immobiliari. Come sarà, come oggi e come sarà domani, le locazioni, condominio, il comodato, le cause di lavoro, eccetera. Insomma, l'accesso alla giustizia avrà un costo, così se uno lo fa perché dice tanto se perdo non pago nulla, intanto paga qualcosa. A proposito di giustizia, voglio segnalare una bella inchiesta che oggi fa Lionello Mancini, sempre sul Sole 24 Ore, inviato in questo caso a Enna. A Nicosia al pranzo di Natale si fa in procura. Una qualifica proprio azzeccata, quella di Daniela Cento, dal 2006 a Nicosia come sostituto procuratore della Repubblica. Infatti nell'ufficio della cittadina siciliana c'è solo lei. Oltre un anno fa è partito l'ultimo collega PM e da un mese anche il procuratore capo. Per questo la dottoressa Cento ha il suo primo incarico, ma in turno esterno permanente dal giugno 2008 trascorrerà anche quest'anno il Natale in servizio, reperibile 24 ore su 24. E non è un'eccezione. Altre quattro procure isolane hanno solo il capo della procura, ma senza sostituti. Insomma, Lionello Mancini, poi i capi solitari delle procure siciliane, questo è il titolo dell'inchiesta, spiega e fa un viaggio nella carenza di posti della giustizia italiana. Ultima segnalazione dal Sole 24 Ore, davvero oggi molto ricco di spunti interessanti. Anna Zavarit in prima pagina, ci sono all'interno due pagine sul vertice di Copenaghen che entra nella seconda settimana decisiva o decisiva per il fallimento, chi lo sa. Intanto una cosa è certa, gli atti di Copenaghen, cioè gli atti, vale a dire la carta che è stata utilizzata in queste e che verrà utilizzata in queste due settimane a Copenaghen da coloro che sono lì per discutere come ridurre l'inquinamento mondiale, sono 2 miliardi di pagine. 2 miliardi di pagine, di fogli di carta, 14 tonnellate, per ora già prodotte, ognuna delle quali produce 1182 kg di CO2, quella per la quale appunto si sta lì a discutere la riduzione. La stampa dei soli documenti ufficiali da parte di tutti i partecipanti di Copenaghen ha prodotto le stesse emissioni di CO2 di 5.000 automobili. Questa come notizia, beh, interessante. Voglio chiudere con l'ultima segnalazione. Vabbè, a Verona c'è una polemica perché la procura ha fatto il presepe in procura, tutti con tutte le statuine nere. Gesù Cristo nero, Giuseppe nero, Maria nera. Vabbè, insomma, ogni anno a Natale succedono queste polemiche. Con annesse questioni, chiudo con lo sport, ahimè il Milan ha perso, pacco dono Inter, questo è il titolo di prima pagina, ma mi interessa non tanto i risultati, perché ahimè il Milan ha perso, ma mi interessa quello che ha fatto Mourinho. Lo ricorda la Gazzetta. All'interno, Mourinho, apostrofato così un giornalista del Corriere dello Sport, Mourinho che ieri era squalificato ma l'ha incrociato in una zona dove Mourinho dice questo non doveva esserci, cosa ci fa qui questo figlio di puttana, questa merda. Il giornalista con grande autocontrollo gli ha detto: ma io non l'ho mai offesa, lei se ne vada via o gli spacco anche, insomma, minacce fisiche. Mourinho.